Noi ieri pomeriggio abbiamo incontrato la preside, è stato un incontro più che positivo, possiamo dire. Capiamo perfettamente sia noi che la preside le preoccupazioni dei genitori, chiaramente, ma dall'incontro di ieri, insomma, abbiamo capito che entrambi abbiamo le stesse esigenze e vediamo le cose molto alla stessa maniera. Di conseguenza i presupposti che si sono creati ieri sono ottimi per una buona convivenza e perché no anche una collaborazione magari in futuro. Quali sono le principali preoccupazioni che avevano i genitori? Ma allora, da quello che noi abbiamo appreso dai giornali è che i loro bambini possano trovarsi in situazioni di pericolo attraversando il nostro spazio, cosa del tutto falsa, e insomma starà a noi poi dimostrare appunto che non è così. La BA da tempo ha un'attenzione ai più piccoli, appunto con la Bimby. Esattamente, infatti il progetto ha in mente di il sogno, diciamo, di noi, di la Bimby, è quello appunto di potenziare il progetto adesso che ci troviamo nelle vicinanze di due scuole e allargarlo anche a fasce magari di bambini che non sono mai stati presenti alla Bimby, perché noi ci siamo sempre occupati di bambini che vanno dai 3 agli 8, 9 anni, diciamo, però qui ci troviamo a che fare anche con una scuola media che è tutt'altra età, e quindi sarà un bel modo per metterci in gioco anche noi stesse. La cosa già dalla sua nascita, insomma, di la Bimby ancora in via Orfeo era piuttosto curiosa, perché difficilmente nei centri sociali, almeno in Italia, almeno a Bologna, si vedono progetti rivolti ai più piccoli. Cosa vi ha spinto a creare e a portare avanti un progetto di questo tipo? Purtroppo quando è nata la Bimby ancora non era a Bologna, però parlando con le ragazze che da più tempo ne facevano parte, insomma, è stata una cosa abbastanza spontanea, e alcune di loro proprio studiavano anche materie all'università, cose che incentrate anche sull'educazione e sulla formazione, e quindi hanno detto perché no, lo spazio c'era, la buona volontà anche, e quindi diciamo che è una cosa che si è costruita man mano, pari passo, col tempo. Tu dicevi appunto che con la preside avete ipotizzato anche forme di collaborazione, ci sarà una riunione anche la settimana prossima, giusto? Sì, abbiamo già fissato un altro appuntamento per la prossima settimana, dove si metteranno appunto le varie questioni tecniche, diciamo si definirà un po' il tutto. Dopo lo sgombero dell'8 agosto e prima dell'assegnazione, lo slogan utilizzato dalla BA era appunto la BA oltre la BA, un po' dando anche il senso di una comunità che gravita attorno, anche con persone diverse. Siete convinti di riuscire a creare questa comunità anche con nuove persone, anche se formalmente il quartiere è lo stesso, però viene da un accorpamento, diciamo, recente? Pensate di riuscire a creare lo stesso tipo di lavoro? Ma lo stesso tipo di lavoro penso sia impossibile, però quello appunto che ci piacerebbe fare è chiaramente anche allargare il nostro giro di persone, coinvolgerne di nuove e intraprendere questo nuovo viaggio anche con persone nuove, certamente, perché sicuramente anche progetti come la Bimby in questo momento hanno molto bisogno di un aiuto, una forza in più, perché siamo rimaste in poche, e quindi io ti parlo del mio progetto in particolare, però penso che tutti quanti abbiamo più o meno questa necessità. Ecco, quindi possiamo sfatare anche il luogo comune che nei centri sociali ci sono solo persone vestite male, brutte, che fanno cose cattive. Sì, no, ieri la preside quando ci ha visto ci continuava a dire che bei faccini, era molto stupita anche dal nostro aspetto, diciamo.